29° canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 29° canto. La molta gente e le diverse piaghe avean le luci mie sì inebriate che dello stare a piangere eran vaghe. Ma Virgilio mi disse: che pur guate, perché la vista tua pur si soffolge là giù tra l'ombre triste e smozzicate? Tu non hai fatto sì all'altre bolge. Pensa, se tu annoverar le credi, che 122 la valle volge, e già la luna è sotto i nostri piedi. Lo tempo è poco mai che n'è concesso, e altro è da veder che tu non vedi. Se tu avessi, rispuosi io appresso, atteso alla cagion per ch'io guardava, forse m'avresti ancor lo star dimesso. Parte sen giva, e io retro li andava, lo duca, già facendo la risposta e soggiungendo, dentro a quella cava, dov'io tenea or gli occhi sì apposta, credo ch'un spirto del mio sangue pianga la colpa che laggiù cotanto costa. Allor disse il maestro: non si franga lo tuo pensier da qui innanzi, sovrello, attendi ad altro e dei là si rimanga. Ch'io vidi lui a piè del ponticello mostrarti e minacciarti forte col dito e udii il nominar Geri del Bello. Tu eri allor sì del tutto impedito sovra colui che già tenne altaforte, che non guardasti in là, sì fu partito. O duca mio, la violenta morte, che non li è vendicata ancor, diss'io, per alcun che delonta sia consorte, fece lui disdegnoso, ond'el sengio senza parlarmi, sì com'io estimo, e in ciò m'ha el fatto a sé più pio. Così parlammo infino al loco primo, che dello scoglio l'altra valle mostra. Se più lume vi fosse, tutto adimo. Quando noi fummo sor l'ultima chiostra di male bolge, sì che i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, lamenti saettaron me diversi che di pietà ferrati avean le strali, ond'io gli orecchi con le man copersi. Qual dolor fora se di gli spedali di Val di Chiana tra luglio e il settembre e di Maremma e di Sardigna i mali fossero in una fossa tutti insembre, tal era quivi e tal puzzo n'usciva qual suol venir delle marcite membre. Noi discendemmo in su l'ultima riva del lungo scoglio pur da man sinistra, e allor fu la mia vista più viva giù ver lo fondo, l'ave la ministra dell'alto sire infallibil giustizia punisce i falsador che qui registra. Non credo ch'a veder maggior tristizia fosse in Egina il popol tutto infermo, quando fu l'aere sì pien di malizia, che gli animali infino al picciol vermo cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorar di seme di formiche. Ch'era a veder per quella scura valle languir gli spirti per diverse biche. Qual sovra il ventre e qual sovra le spalle l'un dell'altro giacea, e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam senza sermone, guardando e ascoltando gli ammalati, che non potean levar le lor persone. Io vidi due sedere a sé poggiati, come a scaldarsi poggia teglia a teglia, dal capo al piè, di schianze macolati. E non vidi già mai menare streghia a ragazzo aspettato dal Signor so, né a colui che mal volentier vegghia, come ciascun menava spesso il morso de l'unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso, e si traevan giù l'unghie la scabbia come coltel di scardova le scaglie o d'altro pesce che più larghe l'abbia. O tu che con le dita ti dismaglie, cominciò il duca mio a l'un di loro, e che fai d'esse talvolta tanaglie, dinne s'alcun latino è tra costoro che son qui in centro, se l'unghia ti basti eternamente a cotesto lavoro. Latin siam noi, che tu vedi sì guasti qui ambedue, rispuose l'un piangendo, ma tu chi sei che di noi dimandasti? E il duca disse, i son un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo, e di mostrarlo inferno a lui intendo. Allor si ruppe lo comun rincalzo, e tremando ciascuno a me si volse, con altri che l'udiron di rimbalzo. Lo buon maestro a me tutto s'accolse, dicendo, di a lor ciò che tu vuoli. E io incominciai, poscia che i volse. Se la vostra memoria non s'involi nel primo mondo dall'umane menti, ma s'ella viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete, e di che genti? La vostra sconcia e fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi. Io fui d'Arezzo, e albero da Siena, rispuose l'un, mi fe mettere al foco, ma quel per ch'io morì qui non mi mena. Vero è, chi dissi lui, parlando a gioco, i mi saprei levar per l'aere a volo, e quei c'avea vaghezza e senno poco, volle ch'i li mostrassi l'arte, e solo per ch'io nol feci dedalo, mi fece ardere a tal che l'avea per figliuolo. Ma nell'ultima bolgia delle 10, me per l'alchimia che nel mondo usai, dannò Minos, a cui fallar non lece. E io dissi al poeta, or fu già mai gente sì vana come la Sanese, certo non la Francesca sì d'assai. Onde l'altro lebbroso, che m'intese, rispuose al detto mio, tramene stricca che seppe far le temperate spese, e Niccolò, che la costuma ricca del garofano prima discoverse nell'orto dove tal seme s'appicca, e tranne la brigata in che disperse caccia d'ascian la vigna e la gran fonda e l'abbagliato suo senno proferse. Ma perché sappi che sì ti seconda contra i sanesi, aguzza ver me l'occhio, sì che la faccia mia ben ti risponda. Sì vedrai ch'io son l'ombra di capocchio, che falsai li metalli con l'alchimia, e te dei ricordar, se ben t'adocchio, com'io fui di natura buona scimmia. Fine del 29° canto dell'Inferno.